E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In Florida ogni cosa è esagerata, scrive Diego Marani sull'ultimo numero del settimanale Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Come nel film Il Padrino, la Florida d'inverno è un posto sospetto. Chi viene qui ha qualcosa da nascondere o ricchezza sfacciata da ostentare. Niente è moderato in Florida. E lo spot televisivo dell'IBM che in questi giorni invita i suoi clienti to go green è quasi patetico in mezzo allo spudorato spreco energetico delle decine di grattacieli con l'aria condizionata a temperatura da obitorio, delle autostrade a 6 corsie per parte, degli Hummer da 393 cavalli, delle luminarie infinite che gettano il loro bagliore fin lontano sull'oceano, degli yacht smisurati che incrociano verso le Bahamas. Anche gli innocenti camper qui diventano perversi. Invece della bicicletta, dietro portano attaccata una Mustang 4000. Se è da qui che si deve cominciare, sarà dura convincere gli americani a convertirsi al pacchetto verde di Obama. È domenica sulle Keys, gli isolotti sabbiosi che prolungano la penisola della Florida nel Golfo del Messico, fin quasi a toccare Cuba. Da Key Largo in poi, è tutta una coda sui 300 chilometri di autostrada piantata su piloni che attraversa il mare per raggiungere Key West, una volta covo di pirati senza bandiera e poi capitale dell'anticonformismo gay, la spagnola Cayo Hueso, isolotto dell'osso, oggi ha un'aria da New England, con le sue casette di legno color anice e pesca. Qui abitò Hemingway dal 1931 al 1940. Ci ambientò il romanzo Avere e non avere, la storia di un miserabile pescatore dell'arcipelago che si mette a traghettare clandestini da Cuba, riportandoli indietro con l'inganno. Howard Hawks ne trasse il famoso film con Humphrey Bogart, ambientato nella Martinica del regime di Vichy. Ma qui di trafficanti veri non ce n'è più. A Key West oggi la trasgressione è solo di facciata. Sul pontile di Mallory Square, vecchie e giovani checche aspettano il tramonto sorseggiando Cosmos, e anche per le strade del popolare Bahama Village, accanto alla più misera catapecchia, sta parcheggiato un SUV più alto di lei. Una base dell'aeronautica militare prende tutta la punta dell'isola e i suoi radar scandagliano il cielo in direzione dell'Havana. Sull'autostrada per Miami, verso sera, il traffico si placa. Vecchie case coloniali biancheggiano nel verde oltre le secche. Ci fermiamo a dormire a Isla Morada, in un motel da telefilm poliziesco, e la mattina dopo quasi ci dispiace di non trovarci il morto. Che il parco degli Everglades fosse grande l'avevamo intuito sulla carta, ma esserci dentro è un'altra cosa. Come andare da Cesena a Monza senza incontrare anima viva. Solo alligatori a pelo d'acqua, paludi, boschi di pini e di mogani. Lungo le vie d'acqua, in 3 giorni di canoa, si può arrivare a Everglades City, dall'altra parte del parco, sulla riva del Panhandle. La notte si dorme nei campeggi attrezzati lungo il percorso. Siamo tentati, ma le teste di alligatore seccate appese alla barca della guida ci fanno desistere. Anche qui un libro e un film. Il cucciolo di M.K. Rowling racconta la storia del piccolo Jody e del suo cerbiatto Flag. Nel film di Clarence Brown, il padre di Jody è Gregory Peck. È lui che uccide la madre di Flag per usarne il fegato come antidoto al morso di un serpente. L'orso Slewfoot sarà morto ormai da un pezzo, ma altri orsi si sentono bramire nella macchia e, come nei film degli indiani, gli avvoltoi volteggiano nel cielo sopra Cape Sable. A dire il vero, di indiani da film la Florida non ne ha mai avuti. I famosi seminole che oggi fanno il folklore amerindio della zona in realtà non erano di qui. Venivano dalla Georgia o dall'Alabama, sospinti via dall'avanzata dei coloni bianchi. Gli spagnoli li chiamavano cimarrones, cioè fuggiaschi non appartenenti a nessuna tribù, da cui viene l'americano seminoles. Lentamente si insediarono nella loro colonia spagnola, mescolandosi agli schiavi neri, anch'essi in fuga dalle piantagioni di cotone, ai coloni spagnoli. Fu così che la Florida, fatta di gente venuta da fuori, divenne meglio di ogni altro stato americano una vera nazione prima della guerra di secessione. Le 3 guerre contro i Seminole furono le più sanguinose che gli Stati Uniti dovettero combattere contro i nativi americani fra il 1817 e il 1858. forse perché i Seminole non erano appunto nativi, ma come gli americani stessi, emigrati e conquistatori. Oggi dei Seminole in Florida restano 6 riserve, le più grandi d'America. Non ci troverete grandi capi piumati che fumano il calumet della pace scrutando l'orizzonte, ma piste di motocross, noleggio di motoscafi, botteghe di souvenir, artigianato di pessimo gusto e soprattutto sale da gioco a non finire. I nuovi Cimarrones hanno infatti ottenuto dallo Stato della Florida l'esclusiva dei giochi d'azzardo nei territori tribali per 25 anni in cambio di una tassa del 25%. Dai campi di Big Cypress, in Mokalee e Fort Pierce, invece delle grida di guerra si leva alto il frastuono delle slot machine. Alla faccia degli altri pelle rossa, i Seminole di oggi viaggiano in Cherokee 5007 e mandano i loro figli ad Harvard. Di notte Miami Beach sembra la cartolina di se stessa, tanto è finta a vederla dai cavalcavia che la circondano. Sull'Ocean Drive tutti i ristoranti sono aperti e i vecchi alberghi Art Deco ostentano le loro pitture restaurate e i loro nuovi ricami di neon. Passano le sventole abbronzate sui roller, passano vecchi hippies su chopper cromati, passano nuovi rasta in vespa senza casco e mentre scorre il mojito a fiumi, come un'ambulanza arriva lampeggiando un camion gigantesco. Ice Emergency, c'è scritto sopra. Il pronto soccorso del ghiaccio, perché nella rovente Florida mai accada che anche un solo cocktail ne rimanga senza. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Diego Marani del settimanale Domenica, legato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Le automobili ormai non si comprano più, ma più che una questione economica, si tratta di un problema culturale. Roma. Le automobili sono il passato, nessuno le compra più. Il mercato è crollato. Le immatricolazioni sono scese del 32,64% in Italia, ancora peggio in Spagna. Pare che sia in corso una specie di catastrofe delle quattro ruote. Ma non è una faccenda di povertà, non è la crisi mondiale del credito, è un mutamento culturale che si è finalmente compiuto. Cambiare spesso la macchina, mostrarla agli amici, alle fidanzate, fondarci sopra l'esistenza quotidiana, parlarne, è definitivamente da tamarri. Meglio non averla, oppure averla, però vecchiotta, e trattarla con sufficienza, come un utensile qualunque. In nessun caso lucidarla la domenica, mai e poi mai spiegare cos'è l'Euro 5, evitare di raccontare nel dettaglio l'ultimo tamponamento. L'automobile è un argomento superato, l'autoradio non esiste più, nessuno ha ancora capito cosa sia un SUV. Nessuna ragazza, per quanto sprovveduta, si impressionerà più per una macchina costosa. Di solito è rubata oppure in leasing e in ogni caso non si sa dove parcheggiarla, quindi la serata è rovinata, la ragazza si è annoiata e il taxi era l'ideale. Nessun grande film celebra le auto di lusso. Solo quel parvenu di 007 guida sempre automobili spaziali, ma solo perché hanno gli speroni nelle ruote, le ali nelle portiere, oppure dei mitragliatori nascosti nella capote. E tra l'altro, non sono auto di sua proprietà, ma gentilmente fornite dai capi. Sono macchine di servizio. La macchina come status symbol è diventata ormai come il Rolex d'oro, come le scarpe di coccodrillo, come l'intenditore di vini che osserva, annusa, slappa, rigira, si agita e recita 20 nomi in francese. Scomparso, dopo essere stato magnificamente preso in giro da Antonio Albanese. L'automobile è un simbolo di libertà. Ma allora basta un pulmino Volkswagen come in Little Miss Sunshine, una vecchia familiare, l'auto acquistata di seconda mano 10 anni fa che funziona ancora benissimo, o una scassata decappotabile come quella di Thelma e Louise, perfetta per scappare e anche per volare via. Gli accessori, i colori, i cerchi in lega, il navigatore di serie, il computer di bordo che a un certo punto impazzisce e provoca il panico segnalando la perdita di una ruota, l'affitto di un garage, la giornata rovinata se si trova lo specchietto graffiato, sono tutti ammenicoli irrinunciabili, pensieri inutili, spese certo non prioritarie. Le macchine non si rompono più, sono oramai perfette, quindi non serve comprarne ogni 4 anni di nuove. Se la funzione è spostarsi, andare al mare, portare i bambini in piscina, andare in ufficio, fare una gita in campagna, andare all'IKEA, accompagnare un'amica in aeroporto, farci l'amore dentro, quando si è giovani. Se si fa il tassista o l'autista privato, occorrerà cambiare automobile più spesso, ma se è soltanto per mostrare al mondo che si è al passo con i tempi. allora si deve elegantemente andare in giro in motorino. Stesso discorso, no cromature, no eccessive novità, no burinate. In bicicletta, in metropolitana, in autobus, in aereo, a piedi o in taxi. A nessuno viene più in mente di chiedere «che macchina hai?». E quando si sale sull'automobile di qualcun altro, non si studia il modello per andare a controllarlo su quattro ruote. Per un breve periodo la macchina sempre più nuova ha avuto il senso di una vittoria, di una conquista sociale, ma è stato un attimo ed era preistoria. Ora è tempo di celebrare su un qualunque scassone funzionante l'addio alle auto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini «Le quattro ruote non si portano più e cambiare macchina è da tamarri» dal Foglio del 3 febbraio. Mentre Obama taglia gli stipendi dei politici, i nostri parlamentari, consiglieri e assessori riescono sempre a trovare un modo per aumentarli. Tra le varie iniziative di Obama, ce n'è una che, al di là della stucchevole retorica di questi giorni, potrebbe essere adottata in Italia senza controindicazioni: il taglio degli stipendi dei politici. Eppure, basta che il concetto venga anche solo evocato per provocare reazioni che neanche un vampiro di fronte all'aglio. C'è stato un momento in cui i politici sono rimasti schisci. Quando uscì quel gran libro sull'Italia che è La casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, di fronte al 1,5 milioni di copie vendute, l'atteggiamento si fece prudente. Poi hanno imparato a reagire. Tutte le volte in cui ho affrontato il tema, anche con un ministro in carica e con uno dei leader dell'opposizione, tutti hanno dato la stessa risposta. E tu, quanto guadagni? Anch'io, a mia volta, ho ormai la risposta pronta. Meno di un terzo di uno dei vostri assistenti che avete fatto eleggere in Parlamento. Ma ormai il dossier è palesemente archiviato. Infatti, non ne parla più nessuno. Non la destra al potere, che tende a interpretare qualsiasi pensiero critico come lesa maestà, e neanche la sinistra, che pure ne avrebbe tutte le convenienze. Perché è all'opposizione e perché il suo elettorato è particolarmente sensibile all'argomento. Però occuparsi dei privilegi e delle entrate, comprese indennità e rimborsi per segretari mai assunti, degli eletti, è considerato populista. Proprio non li sfiora l'idea che è vero il contrario. È profondamente liberale porsi il problema dello status dei rappresentanti nel momento in cui i rappresentanti soffrono la peggior crisi del dopoguerra. Chi chiede sacrifici deve avere l'autorità morale per farlo. Si fa politica anche attraverso i segnali che si trasmettono all'opinione pubblica e un segno di sobrietà, di rigore, di sensibilità sarebbe oggi molto apprezzato. Anche perché la generosità con cui i deputati, assessori, consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, amministratori di ASL e municipalizzate si assegnano l'un l'altro laute e prebende va di pari passo con l'arroccamento della politica. I parlamentari sono nominati dalle segreterie di partito, le primarie considerate ormai una seccatura. Le nomenclature sono sempre lì, inattaccabili e inattaccate. La pressione che 15 anni fa aveva portato ai referendum, ai collegi uninominali, all'elezione diretta dei sindaci, si è da tempo allentata. Le rare volte che escono da palazzo, i politici vengono avvicinati da clienti che chiedono favori, più che da cittadini che chiedono conto. Anche per questo si sentono sempre più tranquilli. Eletti in senso biblico, non nel senso di scelti dal popolo. Finché dura. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Eletti in senso biblico, dal Corriere Magazine numero 5 del 5 febbraio.